Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Buona Pasqua, è giusto? È oggi. No, lo dico perché quando si lavora nei giorni festivi uno non si ricorda mai se è festa. Ovviamente, io lo faccio con gran piacere, che veramente non mi ricordo. Però questa mattina ho trovato sul parabrezza della mia auto una rosa e non ho capito se è stata messa lì per caso, semplicemente perché qualcuno è passato e piuttosto di buttarla per terra così ha deciso di metterla sul parabrezza della prima auto che aveva davanti, oppure se invece qualcuno l'ha fatto di proposito. E chiaramente a me piace pensare che qualcuno l'abbia fatto di proposito, e quindi è stato un modo per rendermi conto anche della festività. Buona domenica anche da Stefano Gallarini, benvenuti nel riposo del guerriero. Oggi, visto che molti di voi si avvicineranno alla tavola imbandita per festeggiare chiaramente questa giornata, anche domani, no? Si farà, ammesso che il tempo regga, perché comincia a far freschino per fare la colazione, la famosa merenda del lunedì dell'angelo, per cui insomma vediamo cosa succederà, non importa. Però dicevo, visto che molti si avvicineranno alla tavola, oggi parleremo dei sensi, partendo dal gusto, perché è uno dei sensi più vicini a noi, quello che quotidianamente ci avvince in un modo o nell'altro. Però toccheremo anche gli altri sensi, indubbiamente la vista, l'udito, perché i sensi possono anche rivoluzionarci la vita in qualche modo. C'è chi per esempio ha cambiato completamente il proprio mestiere per avvicinarsi ai propri sensi, dedicandosi magari al gusto o all'orecchio, quindi alla musica ovviamente. Prima di questo però il modo per contattare Il riposo del guerriero, gli sms al 349 238 6666, perché voglio conoscere anche le vostre storie che abbiano a che fare con i sensi. E poi il numero verde invece, perché alle 11.30 come sempre ci sarà il mistero in 24 minuti, la possibilità di portarvi a casa fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. La risposta come sempre può essere o non notizia, oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto, e più indizi ascolterete, gli indizi sono musicali, più il premio si abbasserà. Però la partenza appunto è 1000 euro. Il numero verde per prenotarsi, settimana scorsa non l'avevo neanche detto, ma questa settimana invece mi ricordo, 800 24 00 24. Vi ricordo anche la pagina su Facebook dedicata al riposo del guerriero, così potete commentare anche lì sopra. E siccome si parla di sensi e di gusto, io inizierei da una canzone molto famosa e anche molto divertente. Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà, ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca. Devo dire che questa è una canzone che osava sicuramente, con questo finale che nessuno avrebbe mai voluto ascoltare, perché dice, non è che dirà quella cosa, non è che la dirà, non è che la dirà, poi alla fine invece la dice. Questa è la grandezza ovviamente di Nina e di Ma che bontà, un po' per introdurre l'argomento di oggi, ovvero la vita che si rivoluziona attraverso il gusto. È vero che domani è anche il 25 aprile, la festa della liberazione, e in effetti quando si sovrappongono le feste poi, non dico ci si dimentica, però bisogna ricordarsi tutto, e quindi grazie a Matteo per dire a Stefano ricordati di citare che domani è il 25 aprile, e ha ragione, lo faccio chiaramente molto volentieri, e quindi abbiamo il doppio motivo per festeggiare domani sicuramente. Allora cominciamo a così in qualche modo introdurre i nostri gusti con una voce che arriva da un vecchio programma che forse ricorderete, e adesso lo riconoscerete indubbiamente, eccolo lì che arriva. Calarma notizie, calarma diminuisce, calarma prezzo gasolio riscaldamento. D'estate. Calarama riscalda casa d'estate. Calarama cal, qualcuno prende culo qua a Calarama cal. Andy Luott, buona domenica, ciao. Ma ancora se ne parla di questa roba? Buongiorno e buona Pasqua a tutti. Beh, a voi, tutti. Se ne parla ancora dopo 30 anni. Ma sai perché ne parliamo dopo 30 anni? Perché in fondo quel personaggio, sembravi un po' arabo in effetti tu con la barba, no, in quel momento, è ancora attualissimo, se ci pensi, è ancora più attuale oggi, forse che 30 anni fa, come dici tu. Era l'85, penso di sì. Ciao Andy Luott, grazie innanzitutto di essere qua nel Riposo del Guerriero. Io vorrei cominciare col fatto, perché ho scoperto delle cose che chiaramente non sapevo assolutamente, che tu in realtà hai fatto la scuola alberghiera. Certo, sì, è vero, bravo. No, il mio mestiere è quello del cuoco da sempre, tutto il resto mi è successo per grazia ricevuta. E quindi a un certo punto hai dovuto, avresti tu voluto fare il cuoco dall'inizio? Dall'inizio. Sì, io sono cuoco dall'inizio. Sì, dicevo, ristoranti, cose. Ma è vero che tuo padre ti disse: ma cosa vuoi farle il cuoco a fare? Tanto la cuoca noi ce l'abbiamo a casa. Quindi. Eh sì, è proprio così, non era una cosa seria. Strano, perché è un grande intellettuale, certe cose forse non è. Perché la cucina ha a che fare con la grande arte nostra, no? Italiana, poi c'è meglio dell'Italia, penso, non lo so, tu viaggi, vai in giro. Quando si ritorna in Italia è sempre una gioia, specialmente per il mangiare. Ecco, tu sei andato a New York, fra l'altro voglio anche ricordarlo, ma la cosa curiosa è questa, no? Perché di solito quando tu vai, cioè quando tu hai genitori, durante la cena, per esempio, a un certo punto dici: sapete cosa ho deciso? Faccio l'attore. E immancabilmente i genitori si zittiscono perché vorrebbero che tu invece facessi qualcosa di più pratico. Bravo. Magari proprio la scuola alberghiera. Per te invece è successo il contrario, in poche parole. Sì, io ero molto affascinato dalla governante di casa. Infatti mangiavo in cucina perché ero un po' rozzo, papà non mi faceva mangiare in sala con i suoi ospiti, tra i quali Fellini, Visconti, tutta questa gente qua, e io invece ero felicissimo di stare a pucciare il pane, farmi le scarpette, guardare gli arrosti, le paste, le cose. Per me la vera gioia era quella. Poi vabbè, ero un ragazzino, ero un ragazzo, non capivo l'importanza degli ospiti di papà, però capivo l'importanza della roba che usciva dalla cucina, andava da loro. Questo è particolarmente interessante, perché il gusto in qualche modo ti ha sempre toccato le corde giuste, malgrado poi tu abbia una vita che ti ha un po' spostato da quello, poi vedremo che sei tornato anche a quello. Allora continuiamo a raccontare la tua storia tra pochissimo, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Yokohama, pneumatici pensati per chi guida, vi presenta Strade in diretta. Sull'autosole si rimane in coda tra Ronco Bilaccio e Barberino di Mugello verso Firenze per un incidente, ma i veicoli coinvolti sono stati spostati. C'è un po' di traffico in uscita da Milano, con code sulla 4 alla barriera di Milano Est verso Brescia, e sul tratto Brescia-Padova incolonnamenti in uscita Peschiera sulla carreggiata in direzione di Padova. Infine rallentamenti per il traffico sulla 26 dei trafori per immettersi sulla 10 verso Genova. È tutto, a più tardi. Il riposo del guerriero. Andy Luott, quindi tuo padre era un impresario cinematografico, dicevi io stavo volentieri in cucina, ma perché, scusami, cos'è che combinavi a tavola perché tuo padre non ti volesse lì insieme agli allora, altri? Allora, io venivo dall'America, sì. Dove la scelta era o reformatorio fino a 21 anni, oppure mamma ha detto forse è il caso che tu conosca tuo padre, e mi ha mandato in Italia. Ah. E papà non lo conoscevo tanto bene, era un tipo rozzo, non che sia cambiato moltissimo io, ma per i primi anni non ero adatto a stare in sala con lui e i suoi commensali. Ma quindi cosa combinavi per rischiare addirittura il riformatorio? Perdonami. No, c'ero da rischiare, già c'ero stato. Ah, c'eri già stato, vabbè, niente. Sì. Non sono cose carine da raccontare la mattina di Pasqua. No, vabbè, insomma, perché è la vita. Ma è la vita, voglio dire, alla fine. È la vita di ognuno di noi, no? Perché tutto può. Ma anche tu sei stato in riformatorio, no? No, io non sono stato in riformatorio, però dico la vita di tutti noi, perché tutti abbiamo delle cose da raccontare che ci formano, che sia una o sia l'altra, non si giudica mai. Quella, anzi. Quella vita lì mi ha temperato molto, non l'ho esatto, mai dimenticato. Infatti. Sì, poi gli studi formali li ho fatti, non è quello. Anzi, moltissime cose di quel periodo lì mi hanno proprio formato nel senso positivo, non che io sia... Certo. Ma la tua, sì, la tua vena comica c'è sempre stata? A un certo punto è emersa, no, o l'hai scoperta? So. Io ho sempre cercato di raccontare cose vere, poi la gente rideva. Quindi... Non ho mai capito tanto il perché. Sono stato fortunato, ho avuto anche più di quanto meritassi nel mondo dello spettacolo. È andata bene. Beh, sicuramente, insomma, quindi vuol dire che c'è qualcosa, no? Perché quello poi è la chiave di tutto. Io sono sta a me. Sì, sì, delle cose buone le ho fatto tantissime stupidaggini, ma strepitose. Vabbè, succede, sai, nella macchina dello spettacolo si fanno delle cose buone e delle cose meno buone, questo ci sta, sì, cosa no, ti devo dire? Il primo film rientra nella categoria tra i 10 peggiori film della storia della cinematografia mondiale. Si chiamava Super Andy, il fratello più brutto di Superman. Ecco, aveva già il titolo, però ecco, ci faceva. L'ho fatto solo per i soldi, perché sai, non pensavo di fare questo mestiere per sempre. Ma hanno detto: abbiamo scritto un film per me. Dico: ma perché avete fatto questo? Senti, pare che molto brutto fosse anche la maestra di sci. Come orrendo. Ne ho fatti dei pezzi di cabaret dopo. Però baciare la fantastica amica Carmen Russo, sì, che sai, io non avevo mai baciato nessuno così, perché me l'ha detto qualcun altro. Certo. Chuck bacia. Ma questa è bella sta cosa qui. Ma non prendevo mai sul serio quella roba lì. Il film è brutto, è brutto. Va visto perché per la bruttezza. Sì, questo sì è vero, i famosi lo so, poi hai fatto anche altri ruoli, non hai sempre fatto il comico assolutamente, hai fatto ruoli anche molto diversi. No, quelli comici siano brutti tutti. Ne ho fatti dei comici così, di film premiati. Beh, il Papocchio, per esempio. Ma siamo qui per parlare di cucina, no? Certo, assolutamente. Scusa, ma volevo tornare indietro per poi venire avanti, perché l'argomento di oggi è proprio questo, la vita che cambia attraverso il gusto. Ecco perché sono partito così dal fondo, diciamo così. Perché in realtà, ecco, il gusto ti ha sempre così toccato, come dicevo prima, le corde. No, più che le corde, il cuore. Ecco, le corde dell'anima, questo erano, le corde dell'anima, non ho detto dell'anima, ma era sottinteso. E quindi succede questo, tu hai sempre accompagnato al tuo mestiere di attore, di comico, la cucina, o a un certo punto proprio l'hai dimenticata completamente? Guarda, io accettavo le tournée teatrali in base alla regione d'Italia dove si andava. Sì. Mi infilavo nelle cucine pur di imparare, di vedere, lavavo insalata, lavavo i piatti, ho fatto di tutto. Questa è la mia prima grande scuola, era questo, infilarmi nelle cucine di ristoranti importanti. Oltre tua nonna, che dici che la ricordi piena di verdure fresche, torniata da verdure fresche, pronta a essere tagliate e cucinate. Ma che meraviglia, che bontà. C'è una generazione di persone che hanno il buon gusto nel DNA. Sì. Poi la mia seconda, la terza scuola, dopo la scuola alberghiera formale, sono tornato proprio nelle campagne, nelle case, a cercare il gusto, cercare cose che uno calpestra e non sa che sono buonissime. Quello è stato uno studio fantastico. Sono veramente per anni andato nelle campagne, nei casali, nelle masserie, in mezzo ai pescatori, le cose lì, è stato fantastico, fantastico. Ecco, il tuo libro parte forse da questo. Allora, innanzitutto diciamo che questa è un'anteprima, stiamo parlando di un libro che deve ancora uscirà giovedì prossimo e verrà presentato a Milano a cargo via Meucci 39 a Milano, e si intitola Faccia da Chef, cucinare in modo semplice, gustoso ed economico per tutta la famiglia. Quindi credo che il libro parta proprio da tua nonna, in qualche modo, da quell'esperienza. Sì, parte dalle mani, dai campi, dal cielo e dalla terra e dal mare, e dalle mani, perché adesso nelle scuole alberghiere qui e là escono dei straordinari cuochi, ma si è andata a perdere anche una gestualità e una ricerca del prodotto sul campo, che è persa, non c'è più, non, la gente non riconosce più, ma anche cuochi grandi alzano il telefono e mi dicono: mandami una cassa di melanzane. Prima chiedono: sono buone le melanzane? Un signore che sta dall'altra parte dice sì, certo, però non c'è più il riconoscimento del prodotto sul campo. Senti, nella rete del pescatore. Ecco, tu credi che, così mi viene in mente una domanda, il successo per esempio dei sushi, no? del sushi in generale, sia dato anche, a parte la moda, ma sia dato dal fatto anche che è ritornato, le persone hanno cominciato a rivedere la cucina davanti agli occhi, perché sai, quando si prepara il sushi tu vedi proprio il pesce che stai per mangiare e vedi chi lo taglia, quindi vedi le mani, come dicevi tu. Ma il guaio che non si riconosce il pesce che stai mangiando. Questo sì, certo. Poi il sushi serio è un mestiere straordinario, prima di diventare un sushi master ci vogliono 6 anni, per non parlare del pesce crudo che in Italia si mangia da secoli, con, secondo me, un grande olio italiano, un poco limone, così, per me personalmente non c'è paragone tra il pesce crudo italiano e quello orientale. Sì, era solo per parlare delle mani, no? Perché come dici tu, la gestualità è molto importante, un po' si era persa, invece quando tu vedi preparare appunto il sushi, allora ritorni a vedere le mani che lavorano. Infatti il ristorante nuovo, io ho la cucina a vista, così il commensale vede, ha la garanzia di quello che mangia. Certo. Guarda il suo piatto in via di esecuzione. E vede anche la cucina che è tenuta sempre perfetta e pulita, perché dobbiamo dirlo che le grandi cucine sono sempre pulite, anche quando c'è molto lavoro. Senti Andy, tu racconti 100 ricette in questo libro, che nascono dall'esperienza, sono tutte tue oppure sono racconti che ti hanno fatto? No, ma alcune sono proprio della classicità, la caponata di mia nonna siciliana è proprio quella classica, che cambiando leggermente le cotture, perché le verdure mi piacciono leggermente più croccanti, e altre sono di mia invenzione. Comunque nascono sempre dalla tradizione, sempre, perché tu guarda, se tu fai uno Shakespeare fatto, non so, da Scaparro, e quello stesso Shakespeare lo fai fatto da Lavia, e sono due commedie completamente diverse, però la base c'è il grande maestro Shakespeare, dove lascia tantissimo spazio per l'interpretazione. La mia cucina è un po' così, sempre dalla tradizione. Non so, io frequento molti ristoranti, anche quelli cosiddetti blasonati, quelli famosi, dove ti fanno, non so, le lumache con liquirizia e cose, qui non fa per me, non dico che non è buono, ma non fa per me. Se devo fare le lumache, io so a chi mi devo ispirare. Certo, senti, allora io adesso stavo ascoltando, cercando anche di capire e leggendo anche i vari capitoli del tuo libro, e tu dedichi un capitolo alla cucina senza glutine. Sì, è perché è un problema che cresce, c'è sempre più gente intollerante al glutine, e poverini vanno al ristorante sempre con il loro sacchettino di pasta senza glutine, il pane senza glutine, poi nei ristoranti pochissimi sono sensibili, perché il grande problema è la contaminazione, cioè deve essere tutto separato, e si possono fare delle cose straordinarie, anzi le stesse cose, con piccolissime accortezze. Però la cucina deve essere adibita alla non contaminazione. Sì, tra queste cose, perché a me la cosa è questa: quando viene il celiaco nel ristorante, sì, poverino, non può fare la scarpetta. E quello per me è un disastro, la scarpetta è sacrosanta. Certo, perché c'è il pane, tu dici, è come si fa. Che poi, allora, appunto, sembra così maleducata, invece io la trovo educatissima. Guai a non fare la scarpetta, secondo me. Straordinario. A me piace molto quelle persone elegantine che vengono al ristorante e la fanno di nascosto. Quello mi diverte, porca miseria. Vabbè, c'è anche appunto quel film di Sordi, quell'episodio, no? Dove... le vacanze intelligenti, dove loro si strafogano in questo, sì, ristorante, di fianco c'è la contessa non so cosa, che prima riguarda in modo così proprio un po' incuriosito ma anche infastidito, poi invece quando assaggia gli stessi piatti anche loro si strafogano. Scusami, torniamo, è una divagazione, torniamo alla scarpetta che il celiaco non può fare. Allora che cosa può fare? Lo può fare benissimo. Se il ristoratore è in gamba ed è sensibile a questo problema, può fare di tutto. Infatti faccio esibizioni in tutta Italia per una grande azienda di cui non posso fare il nome, perché sennò pare che comunque si chiama Char. Sì. E faccio esibizioni dove c'è un risultato straordinario, perché faccio piatti nostri, italiani, usando le farine giuste, usando le tecniche giuste. Perché non può mangiare lo gnocco? Hai capito? Lo gnocco, se dipende dalla patata, ci fa sempre un po' di farina. Certo, certo. Benissimo. O un fritto, o una pasta, o un raviolo, o il pane, o un dolce. Possiamo fare di tutto. Ci sono gli ha avuto risultato questa cosa, un piccolo capitolo del libro, che però sta avendo, c'è chi ha visto il libro, piace questa cosa qui. Vabbè, è chiaro, anche per chi per esempio vuole semplicemente eliminare il glutine dalla propria dieta per una ragione personale, anche al di là che sia più o meno intollerante. L'ultima domanda che ti faccio, Andy, è questa: c'è un piatto che secondo te è comico per qualche ragione? O perché, non so, far ridere te, o semplicemente perché lo trovi comico? No, c'è un piatto che è tutto, ma sì, guardandolo uno dimentica la bellezza e la felicità che dà. Io ho fatto una serie di 50 documentari tra l'Amazzonia e l'Est Africa, sì, che è New Ghana. Ovunque io andassi, alla fine di ogni permanenza, con ogni etnia, preparavo un piatto di spaghetti al pomodoro. Questo piatto, perché noi lo vediamo, diventa normale, ma tutte queste cose curve, luccicanti, che a momenti si muovono anche qui, la gente guarda, per chi non lo conosce, c'è gente in giro per il mondo, appunto in queste etnie sperdute, che guardano e sorridono. Perché è felice. Noi lo facciamo per istinto o perché ce l'abbiamo, come dicevo prima, nel nostro DNA, ma questo mette felicità, anche se non sai che cos'è, e il piatto è divertente. Certo, è proprio che è vivo. È vero che però mette il sorriso, fai un bel piatto di spaghetti con pomodoro, fognelli di basilico e hai il sorriso. Questo è vero che è così. Allora, beh, potrebbe essere anche un'idea per il vostro pranzo pasquale, anche se magari non festeggerete e sarete da soli, ma festeggiate con voi stessi. Andy Luotto, faccia da chef, cucinare in modo semplice, gustoso ed economico per tutta la famiglia, sarà in libreria dal 28 aprile. Complimenti e grazie per averci raccontato la tua storia. Una buona Pasqua a te, lo staff e tutti gli ascoltatori. La radio vostra è veramente fantastica, ce l'ho sintonizzata in macchina, mi fa tantissima compagnia, complimenti. Ti ringrazio davvero tanto e li faccio anch'io a te. Buona Pasqua e auguri ancora. Andy Luotto, e tra poco ancora parliamo di questo, ovvero del gusto, non soltanto, ma dei sensi che a volte ci stravolgono completamente la vita. Gli sms al 349-238-6666. Il riposo del guerriero. Una persona non so che era 24, ovviamente anche mia. Allora, questo è un altro senso, eh? Quando si gioca con un videogioco ci sono molti sensi che si muovono: la vista, indubbiamente, l'udito, prontezza di riflessi. E ne parleremo anche nel corso della puntata di oggi. Ernie Lombardo, buona domenica. Sì, buongiorno a tutti voi. Eccoci qua. Allora, abbiamo la stessa età, ho scoperto, Ernesto. Sei giovane allora. Giovanissimo. Allora, anche qui, siccome oggi la puntata è dedicata a chi in qualche modo ha rivoluzionato la propria vita dedicandosi a uno dei sensi, parliamo ancora di gusto, da buon napoletano. Sì, da buon napoletano, sai, nella vita succede sempre di tutto. Diciamo che questa passione viene dal cuore, viene dalla grande esperienza avuta e tramandata da quelli che sono poi bisnonni, nonni, la mamma prima di tutto, grande cuoca, e da grande manager che ero su Milano, perché poi mi sono trasferito a Milano e sono ritornato poi a questa passione che è la passione della cucina. Ecco, infatti, perdonami se ti interrompo, riflettevo sul fatto che forse il titolo della puntata avrebbe dovuto essere il richiamo dei sensi, perché ho notato che la prima cosa, il primo aspetto, quello istintivo, è stato proprio quello del senso. Poi la vita vi ha fatto cambiare, parlo al plurale perché prima parlavo con Andy Luotto, che ha avuto un po' un percorso simile, anche se tu poi hai fatto un'altra professione, però hai lasciato tra virgolette la cucina, però in realtà avevi cominciato così, perché da quello che leggevo tu quando eri quattordicenne nelle feste ti occupavi proprio del catering, di quello che oggi sarebbe il catering. Certo, sì, ma ti dico, a 14 anni facevo già da mangiare per 70, 80, 90 persone e mi veniva semplice. Io mi ricordo le mie impepate di cozze, le mie prime impepate di cozze, così andavo a pescare insieme ad amici e poi si cucinava per tanta tanta gente, perciò sempre più che catering era proprio quello il richiamo del senso. Io diventerei pazzo, quanto sale metto, perché finché siamo due o quattro, ecco, va bene, non mettere ma poi... sale nelle cozze, non mettermi il sale nelle cozze. Nella pasta sì, però nell'acqua della pasta sì, certo, è chiaro. Ma la cozza è già salata perché viene dal mare. Certo. E e perciò tu lì vai a definire solo un po' con quei classici, ecco, la mia cucina è tradizione, perciò è una cucina classica che io poi faccio e ho sposato questa azienda Le Creuset, che è la mia azienda primaria francese di pentole in ghisa, perciò la mia cucina è in ghisa. Andy anche ha scritto delle ricette con queste grandi pentole, perciò è un grande e caro collega anche tu, Andy, ecco. Tu ti sei occupato di business in realtà, a un certo punto hai fatto l'imprenditore. Cos'hai combinato? Cosa ti è successo? Ti sei sposato e hai detto basta, la cucina non mi piace ma più, preferisco mangiare. Sì, mi sono sposato e ho avuto anche un matrimonio felice, una figlia meravigliosa. Milano, sai, Milano ti apre le porte su tutto quello che può essere il grande ambiente del lavoro. E ho trovato delle strade diverse, ma non per altro, in altri mondi, che comunque la mia esperienza poi e la mia passione mi ricollegava a quello che era la cucina, solo che i commensali venivano in casa mia e avevo, le mie porte erano sempre aperte, avevo 20, 30, 40 persone sempre a mangiare con gli amici, perciò facevo altro mestiere, però la cucina era sempre presente. Ecco, a proposito di cucina, adesso entriamo nel vivo della chiacchierata con te, perché tu in realtà hai fatto anche un certo tipo di studio per arrivare a un certo tipo di cucina. Sì, sì, guarda, è strano, il mio studio è approfondito in quello che è il richiamo proprio della ghisa, no? Sono uno chef Monzu perché la tradizione di quella che erano i monsieur francesi, perciò parliamo del 1800, quale Francia e i nobili francesi avevano in casa il loro chef, il personal chef, ecco la mia strada, io nasco come personal chef. Avevano questo cuoco, ma che in qualche modo cucinava questi nobili sempre le stesse pietanze, il riso al sugo, è nato in Francia, questo riso al sugo però ai francesi piaceva, ma poi a un certo punto non è più piaciuto. 1820, Gioacchino Murat, questi cuochi arrivano in Italia e trovano il regno delle due Sicilie e sbarcano a Napoli, i cuochi napoletani li accolgono, ecco il Monsieur Monzu, noi storpiamo tutto a Napoli, i nomi, noi abbiamo questa abitudine, no, di chiamare, certo, così come Boat, così come tante altre famigerate diciture francesi, e perciò arrivano a Napoli, il riso al sugo diventa il, perciò il sartut diventa sartù di riso, noi aggiungiamo i piselli, la carne trita, i funghi e tutto quello che era un masuglio a Napoli si dice, no? Tutto quello che rimaneva così in giacenza nel frigorifero, noi lo aggiungiamo e facciamo e diamo vita a questo piatto meraviglioso, sartù di riso. Ecco, quindi questi cuochi, sì, che hanno messo insieme due tradizioni, in poche parole, quella francese e quella italiana, se non mi sbaglio, e cominciano a diventare particolarmente popolari e molto richiesti. E con una cucina fondamentalmente molto semplice anche. Perfetto, la tua parola è giusta e questo lo dico sempre a tutti i miei amici commensali e in questo momento a tutti i tuoi telespettatori, che so che sono tanti. Sì, la cucina, bisogna ritornare un po' alla vecchia, al vecchio metodo di far cucina. Donne, le massaie, le signore della cucina, ma anche ormai molti signori, che cucinano nelle case, quella è la vera cucina, quelle sono le vere ricette che ad oggi possiamo presentare. Tante volte mi chiedono, quando sono, io giro un po' tutta l'Italia, ma anche un po' l'Europa per Le Creuset, e mi chiedono, ma perché le ricette sono così difficili? Perché nelle ricette che scrivono grandi colleghi, sono tante volte 5, 6, 7, 8 specie, come facciamo noi a unirle? E io dico, cucinate così come si cucinava tempo fa, all'interno di una cucina c'era una semplice pentola. Ecco, Ernie, non so se io te la faccio questa domanda, ma quanto costa avere uno chef che viene a casa e ti prepara una cena completa? Quindi guarda, dipende molto dallo chef, molti colleghi sono inavvicinabili. Avere uno chef a casa si parte da una cifra di 150 euro per avere un personaggio comunque che ti conduce diciamo, a un percorso gastronomico. Ecco, ma addirittura... scusami, la cifra che mi ha indicato è una disposizione, ovviamente, lo chef per preparare, ingredienti a parte ovviamente, sì, per preparare una cena per due, per esempio? Anche per due, certo, anche per due. Se no, perché vedete, costa meno lo chef a casa che il ristorante, questo bravo, che sto dicendo. Bravo, ma è la verità, costa meno lo chef a casa, è chiaro che se chiamiamo uno chef stellato il prezzo incomincia. Ma questo è ovvio. È chiaro, no? Ma partiamo da chi sa almeno iniziare una vita culinaria, e perciò quel prezzo che io ti ho detto, secondo me, è molto accessibile, costa meno di un ristorante. Sicuramente, cioè, sicuramente, insomma, comunque, beh, certo, le materie prime, ovvio, cioè, certo, però insomma è un prezzo sicuramente abbordabile, e ce lo si può anche regalare almeno una volta nella vita. Ernie, chiudevo con te con questo: tu hai citato il riso al sugo, sì, per prepararlo. Il procedimento è come quello del risotto oppure è un procedimento completamente diverso? No, completamente diverso. Ecco la vecchia ricetta dei Monsier uniti ai Monzù, perché sì, poi sono diventati Monzù. Bisogna preparare il cibo così come veniva preparato una volta, perciò riscaldare il riso. Il risotto è... Milano mi ha regalato tante cose belle, di cui anche il risotto, però lo dobbiamo lasciare da parte. Certo, un'altra riso cosa. Riso bollito, sì, sugo a parte con chi piace la trita di cipolla, è molto basilico dentro, perciò passato di pomodoro, sì, e poi lo uniamo al riso, e abbiamo fatto il riso al sugo. Poi facciamo, se ci piacciono i funghi, andiamo a tritare prezzemolo, aglio e incominciamo funghi champignon e li facciamo saltare in pentola. Poi facciamo saltare la pancetta, perciò sono tanti passaggi, la carne trita mai messa al crudo, ma incominciare a dare la prima sbollentatura e perciò la cuocere quei 5, 6, 7 minuti per far sì che quel rossore della carne vada via e diventi un piatto. Questi qua, 5 piatti li uniamo e abbiamo, signore e signore, il grande sartù di riso. Che meraviglia, guarda, tu hai detto far saltare la pancetta, ma quella che noi abbiamo proprio sotto l'ombelico non salta proprio, questo è il problema. Quella no. Adesso vedremo di far qualcosa. Vedremo di far qualcosa. Grazie Ernie Lombardo, buona domenica, buona Pasqua, auguri. Tutti voi telespettatori, anche a voi. Grazie. Ciao, grazie. È bello perché è quello un altro senso, nel senso della vista, per esempio. Questa è una radio e sarebbe l'udito, ma lui diceva telespettatori, perché l'abitudine è anche andare, perché è vero che quando parli anche in radio immagini le cose, le guardi, le vedi, e quindi è come se fosse la TV, ma questa è una grandissima cosa, mi piace. Allora, adesso è vero, abbiamo parlato di ricette, però bisogna capire che cosa mangiamo. Ci sarebbe da discutere, penso, giorni. Filippo Ongaro, buona domenica. Eccomi, buona domenica a voi e tanti auguri. Grazie. Allora, tu hai lavorato come medico degli astronauti presso l'Agenzia Spaziale Europea e io devo partire da lì, perché ti sei occupato proprio dell'alimentazione degli astronauti, che certo non è che possono mangiare le ricette delle quali abbiamo appena parlato, immagino. No, assolutamente, in effetti mi sono avvicinato al tema del cibo forse occupandomi proprio dell'ambiente più estremo in cui gli esseri umani finiscono col vivere, che è lo spazio. Voi potete immaginarvi che fornire agli astronauti cibo è una cosa molto complicata, c'è dietro tutto un processo di lavorazione, di tecnologia molto sofisticato, e diciamo negli anni si è imparato sempre di più come utilizzare il cibo a scopo medico, utilizzerei questo termine, cioè non soltanto per quello che riguarda il piacere, che ovviamente deve rimanere, ma anche considerando che cosa il cibo fa all'interno dell'organismo in termini di salute quando è buono e di malattia quando evidentemente non è buono. Ecco, allora facciamo un passo indietro. Innanzitutto, tu hai appena pubblicato da pochissimo Mangia che ti passa, uno sguardo rivoluzionario sul cibo per vivere più sani e più a lungo. Allora, dobbiamo fare un salto indietro, perché forse dobbiamo partire, come tu fai nel tuo libro, nella prefazione, dobbiamo partire dall'invecchiamento precoce che gli astronauti, ai quali gli astronauti sono sottoposti per una questione proprio dell'assenza di gravità, vero? Sì, esatto, cioè l'astronauta tutto sommato è davvero un modello eccezionale di studio per capire come l'organismo umano invecchia e anche come recupera quando gli dai degli stimoli diversi. Considera che grosso modo 6 mesi nello spazio equivalgono a 10 anni a Terra, quindi c'è davvero un'accelerazione impressionante dei processi di invecchiamento che colpiscono l'osso, il muscolo, il sistema endocrino, il metabolismo. Quindi tu di fatto hai una persona che mandi in orbita sana e che ti ritorna a Terra come se fosse invecchiata. Scusami, a velocità elevatissima. Scusami se sorrido, Filippo, perdoni, ma siccome qualche settimana fa io ho parlato dei viaggi che stanno per partire, quella di Virgin nello spazio, no? Esatto. Che costano una valanga di soldi, adesso non mi ricordo più quanti, forse $150,000, una cosa del per genere. Per invecchiare, bravo, esatto, stavo pensando a quello. Siccome quelli che lo faranno avranno una certa età, ovviamente, allora mi domando se mai... Esattamente, comunque però tieni presente che ovviamente lì si tratta di voli di durata estremamente breve, mentre quando noi parliamo di voli che sono molto più lunghi, certo. Esatto, parliamo di voli come quello che sta facendo il nostro Paolo Nespoli, che è attualmente sulla stazione spaziale, che è un volo di 6 mesi, quindi diciamo quello che è il volo andata e ritorno modello turistico non ha nessun impatto di questo tipo. La permanenza in una stazione spaziale, ma ti dirò, non solo per l'assenza di gravità, anche per l'assenza di luce solare, per l'esposizione a radiazioni, per lo stress, cioè è davvero un modello, se vuoi, completo di invecchiamento accelerato, che tutto sommato assomiglia molto alla vita stressante di un uomo in una città di oggi rispetto a quello che poteva essere, diciamo, la vita dell'uomo primitivo, per la quale siamo ancora biologicamente programmati. Ecco, la cosa straordinaria è che poi, ritornati sulla Terra e con un adeguato programma anche alimentare, e tutto questo tempo, diciamo così, ritorna a essere quello che siamo abituati a conoscere, per cui l'invecchiamento diventa un ringiovanimento, cioè si torna indietro in qualche modo. Funziona così? Senza dubbio, cioè sia la ricerca nell'ambito spaziale che molte altre, in molti altri settori della medicina e delle scienze biologiche, non escludendo la genetica, sta emergendo questo quadro che in realtà l'invecchiamento è da un lato la base fisiopatologica delle malattie che noi conosciamo, che sono la malattia della terza età, che non nascono dal nulla ma nascono proprio da un lento processo di degradazione dell'organismo. Dall'altro stiamo anche scoprendo che questo processo è davvero modulabile, quindi non è più vera la teoria che l'invecchiamento è fatto puramente fisiologico e che ci si deve convivere. Chiaramente tutti invecchiamo ed invecchieremo, però la velocità e la qualità di questo invecchiamento può essere profondamente modificata, e il cibo, se tu pensi che noi ingeriamo in una vita di 80 anni circa 50 tonnellate di cibo, beh, tu capisci che se le 50 tonnellate sono di cibo buono avranno un effetto, se sono di cibo cattivo ne avranno un altro. Sono tutto nella mia pancia quelle 50 tonnellate. Allora, la domanda è questa: mettereste un carburante inquinato nella vostra automobile? Probabilmente no. Eppure la maggior parte di noi lo fa quotidianamente con il proprio organismo, spesso in modo inconsapevole. Questa è la domanda, cercheremo di dare una risposta con l'aiuto del tuo libro e tuo, soprattutto Filippo, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Sempre in diretta con Filippo Ongaro, autore del libro Mangia che ti passa, uno sguardo rivoluzionario sul cibo per vivere più sani e più a lungo. Allora, dicevamo, noi ingeriamo in media dalle 30 alle 60 tonnellate di cibo negli nostri 80 anni medi, ma che cosa ingeriamo? Punto di domanda. Ma io credo che sia, senza voler diciamo demonizzare nessuno, però è un dato di fatto che il cibo oggi è diventato prima di tutto un prodotto, quindi non è che il cibo venga prodotto con l'intento di farci stare bene. Certo. Il cibo viene prodotto con l'intento di essere venduto. Sì. E non è un caso che nel mondo oggi ci siano circa 1,5 miliardi tra obesi e sovrappeso ed esattamente 1,5 miliardi di affamati. Quindi c'è qualcosa di assolutamente anomalo nel modo in cui il cibo viene gestito globalmente oggi, e credo che dovremmo fare una riflessione, perché a partire dalle nostre pance che crescono e a partire dalle pance di altri che invece non crescono mai. Cioè noi occidentali siamo diventati purtroppo vittime del cibo, no? Si finisce col mangiare per vivere invece che col vivere per mangiare. E non sono le eccezioni, per esempio, del giorno di Pasqua che rappresentano il problema, ma sono davvero quelle errori quotidiani protratti per decadi e decadi, ed è questo che dobbiamo cercare di eliminare. Ecco, tu dicevi che le sostanze contenute nei cibi, questo è scientificamente provato, sono in grado di interagire con i nostri geni, addirittura fino a modulare le risposte cellulari, quindi ad avere un cambiamento del fisico in questo senso. Ma guarda, io ci tengo a dire, perché sai, nel campo dell'alimentazione esce circa un libro al giorno. Immagino. E alcuni dei quali devo dire anche molto fantasiosi. Io quello che ho cercato di fare è davvero di raccogliere quello che la scienza ci sta dicendo in questo momento, e non c'è dubbio che uno dei rami più interessanti è la nutrigenomica, che studia proprio questo, cioè l'interazione che i nutrienti hanno sull'espressione dei nostri geni, quindi sulla modulazione di tutta quella macchina complessa di attività cellulare che poi determina nel tempo come sta un tessuto e da lì come sta un organo. E quindi stiamo andando sempre di più alla radice del problema, cioè oggi la medicina è davanti davvero ad un nuovo orizzonte, che è quello di diventare dalla medicina degli organi alla medicina delle cellule. E in questo, incredibilmente, nonostante sia un passo avanti in termini scientifici molto importante, rappresenta anche, se vuoi, un passo indietro in termini delle soluzioni da adottare, perché alla fine si scopre che il cibo ha un ruolo fondamentale, che ridurre lo stress ha un ruolo fondamentale, che quanto ci esponiamo a tossine ambientali ha un ruolo importantissimo, no? Quindi ci accorgiamo come la ricerca più va nel profondo e più ci sta dicendo: attenzione, perché quello che avete fatto del vostro mondo, della vostra, del vostro stile di vita, comincia ad avere un impatto deleterio. Filippo, converrai con me però che è difficile. Perché è molto, guarda, è molto difficile, ma forse molto meno di quello che si pensa. Allora da dove cominciamo? Ma io lo vedo con i miei pazienti, diciamo, con cui lavoro in ambulatorio. Io credo che il cibo rappresenta davvero l'inizio di questo cambiamento, e non vanno fatte delle scelte radicali, la dieta super ipercalorica, ipocalorica, ma vanno fatti dei piccoli cambiamenti. Io dico sempre: cambiare il 10% è meglio che non cambiare nulla. Sì. Quindi credo che il primo passo sia prendere consapevolezza che possiamo fare qualcosa e che la salute non va gestita semplicemente nel momento in cui l'abbiamo persa, ma bisogna apprezzarla quando ce l'abbiamo e cercare di mantenerla il più a lungo possibile. Da dove possiamo iniziare? Ma guarda, facciamo un esempio relativo a quello stavi dicendo tu prima, no? Il piatto di riso. Sì. Ecco, la scelta se fare un piatto di riso con un riso bianco o un riso integrale, per esempio, in termini di salute è completamente diversa. Il riso integrale ha un indice glicemico basso, quindi darà un impatto sulla nostra glicemia relativamente modesto, e trasporta, proprio perché ha la fibra, un sacco di segnali positivi all'interno dell'organismo. Il riso raffinato questo non riesce a farlo. Quindi è un esempio di una piccola scelta che diciamo riassumerei nel dire: per esempio, se mangiate carboidrati, passate alle versioni integrali dei carboidrati, che non è poi così pesante da fare. No, no, perché la tua alimentazione non cambia in realtà, no? Mangi comunque appunto la pasta. Tutto sommato non cambia. Tutto sommato, come potrebbe essere quello, no, della scelta delle proteine animali, da fare con maggiore cautela, cercando per esempio prodotti che provengono da una zona vicina a noi, da un allevamento controllato. Quindi credo che davvero il primo passo, e questo credo che sia descritto abbastanza bene nel libro, è raggiungere un certo grado di consapevolezza, cioè non essere passivi nell'accettare questa massiccia industrializzazione del cibo, che ovviamente è più comoda perché vai nel supermercato e trovi tutto, però nel tempo questa comodità la paghiamo. No, sto pensando, perché immaginavo la vita tipo di una persona che lavora tutto il giorno, poi arriva a casa che non ha tanto tempo per andare a fare la spesa, quindi magari decidersi le cose, non ha tempo di andare al mercato, quindi preferisce il supermercato. Anche i supermercati ormai stanno cambiando anche da quel punto di vista. Appunto, ecco. Infatti. Quindi cioè, ci vuole, dici, più attenzione sicuramente, eliminare delle cose o comunque ridurne il consumo. E la domanda arriva: se un astronauta, dopo essere invecchiato precocemente per il suo sostare in orbita, ritorna poi sulla Terra e velocemente recupera, questo recupero possiamo averlo anche noi, cominciando a renderci conto di quello che mangiamo e quindi a questo punto mangiando in un modo più intelligente? Oppure ormai siamo persi quasi per sempre perché abbiamo superato i 40 anni, faccio un esempio. No, no, senza dubbio il recupero c'è e devo dire che come è emerso dalla ricerca per quello che riguarda il fumo, che non è mai troppo tardi per smettere, la stessa cosa con l'alimentazione, quindi non metterei alcun limite di età, tutti possono beneficiare da una diversa cultura del come alimentarsi, perché proprio di una cultura si tratta, come c'è la cultura del cucinare in un certo modo, ora sta emergendo la cultura del comprendere cosa ci fa bene e cosa ci fa male. E direi che la grossa assenza è proprio questa, del creare una cultura a partire dai bambini, fargli capire che cosa fa bene e che cosa fa male, è una responsabilità di noi adulti, genitori o delle scuole, che spesso viene completamente dimenticata. Quindi io credo che il passo più complicato in realtà non è un passo operativo, ma è un passo nei confronti di noi stessi nel dire fermiamoci un secondo e cominciamo a ragionare sul fatto che se ingurgitiamo una marea di cibo che è costruito, è creato in un certo modo che non è compatibile con il nostro organismo, questo prima o poi ci creerà dei problemi, ma cambiare a 40, 50 o 70 anni va sempre bene, va sempre assolutamente bene. Tu dici appunto, basta anche poco, però basta cominciare. Senti Filippo, c'è qualcosa che dobbiamo assolutamente scartare? Tu parlavi del fumo prima e quello è facile, scartiamo le sigarette, no? Ecco, semplice. E nel cibo c'è qualcosa che dobbiamo proprio dimenticare? Ciao. Ma guarda, io è un tema poco popolare, soprattutto il giorno di Pasqua, però devo dire che in Italia se c'è un problema oggi è l'eccessivo utilizzo di carboidrati appunto di tipo raffinato, cioè pasta, pane, dolci, tramezzini, panini. Noi siamo un popolo che ha creduto, ma un po' in una forma di illusione, di essere ancora protetto da una dieta mediterranea che in realtà in Italia non fa più nessuno. E credo che un passaggio fondamentale sarebbe proprio quello di ridurre l'introito dei carboidrati e quando si mangiano, mangiare le versioni integrali che hanno delle proprietà assolutamente diverse dalle versioni raffinate. Questo è, credo, un messaggio relativamente semplice e che riguarda però proprio noi italiani che invece facciamo un uso molto molto elevato di carboidrati raffinati. E la Pasqua che cosa ti presenterà sul tavolo del pranzo, ammesso che tu lo faccia? Guarda, è una domanda a cui non riesco a risponderti perché in questo momento sono a Budapest e quindi a pranzo andrò a farmi un giro per la città, quindi non credo che farò un pranzo pasquale tipico oggi. Va bene, allora ti sei salvato in corner, diciamo la verità, sei andato a Budapest a posto e che sapevi l'intervista e hai detto non voglio cadere nel tranello della domanda finale. Mi sono salvato in corner. Esatto, allora ti auguro chiaramente una buona sei lì per vacanza o perché devi tenere qualche conferenza? No, sono qui per fare 2 giorni di vacanza e poi anche per un paio di giorni di lavoro la prossima settimana, tra cui anche una piccola conferenza qui a Budapest. Va bene, allora divertiti sicuramente, ti faccio gli auguri comunque e grazie per quello che insomma hai fatto, hai studiato e che ci proponi. Cercheremo di seguirti in qualche modo e ringiovanire proprio con l'anima e col fisico. Grazie Filippo Ongaro, buona domenica. Grazie mille a voi e buona domenica, auguri ancora. Ciao, vi ricordo il libro Mangia che ti passa, uno sguardo rivoluzionario sul cibo per vivere più sani e più a lungo. Che meraviglia. Allora, io sorrido perché mentre si parla di queste cose io vedo i miei piatti, cioè quelli che normalmente cucino io, mi faccio, mangio, e molto spesso non corrispondono a quello che viene descritto, per cui mi sento un po' in colpa. Vabbè, 10:58 minuti, 800 24 00 24, perché si gioca alle 11:30 con il mistero. In 24 minuti continuiamo a parlare dei nostri sensi, ma cambieremo, niente più cibo, passeremo alla vista. Il riposo del guerriero. Le 11:04 minuti. Il richiamo dei sensi, questa è la puntata di oggi del riposo del guerriero. Anche le vostre esperienze, se volete raccontarcele al 349-238-6666, perché i sensi a volte ci stravolgono la vita. Magari abbiamo un percorso e poi a un certo punto uno dei nostri sensi o più sensi insieme ce lo fanno cambiare. E volevo dire anche il nome dell'ospite che ho avuto prima, che era Filippo Ongaro, e che appunto ha scritto questo libro sul, sul cibo, che si intitola Mangia che ti passi, ti passa, uno sguardo rivoluzionario sul cibo per vivere più sani più a lungo. Lui ha lavorato col centro spaziale, si è occupato proprio della dieta degli astronauti, da lì è partito per poi scrivere questo libro. Secondo me sono arrivati diversi sms che chiedevano il suo nome. Parliamo ancora di sensi e c'è Fabrizio Cirinigliaro al telefono. Ciao Fabrizio, buongiorno. Ciao, buon dì. Allora, adesso sei bendato oppure hai tolto la benda? No, meglio? Basta, esco da 2 giorni di gare, per cui non ho visto la luce per un po'. Allora Fabrizio è il campione italiano del cubo di Rubik, che è quel cubo tremendo che Rubik inventò credo negli anni, alla fine degli anni 70 se non mi sbaglio, adesso non vorrei dire un'idiozia, ecco, anzi perché l'ho anche conosciuto Rubik fra l'altro, quando aveva proprio presentato il cubo, e insomma lo conoscete tutti adesso, tra l'altro esistono anche i cubi cinesi che sono di Rubik, scherzo, ma che sono quelli finti, che si incastrano, non girano come quello originale, diciamo la verità, perché la meccanica è importante, e che dovete scomporre a caso e poi ricomporre, e ricomporre è difficile. Io mi ricordo che però esistevano delle tecniche per ricomporlo, ci sono dei libri che ti spiegano anche come fare. Sì, più che dei libri ormai ci sono dei siti. Intanto volevo precisare, non sono un campione italiano del cubo di Rubik, ma del cubo di Rubik da bendato. Io te l'avrei avrei detto dopo quella cosa, avrei aggiunto, capito? È importante, perché c'è qualcun altro che è campione italiano del cubo di ma Rubik, era il mio asso, era il mio asso nella manica, nel senso che capito, nel senso che dicevo, sì, magari siete anche riusciti a risolverlo, ma provateci da bendato se ci riuscite, lì che no, volevo arrivare. Comunque ci sono dei siti ormai. C'erano dei libri pubblicati negli anni 80, io sì, sono riuscito anche ad acquistarli, perché io sono un ragazzo del 75, per cui diciamo che da ragazzino anch'io scivo matto per poter risolvere questo problema. Certo, ti veniva il nervoso, e vorrei anche vedere. Se lo scomposto. Un sistema adottato forse dai genitori per tenerci calmi un po'. Sì, ma bendato, io non capisco come si faccia. Scusa, da qualcosa, cioè tu lo devi guardare un po' prima. Quanto tempo hai per guardarlo prima di essere bendato? Allora, praticamente nel momento in cui il cubo viene scoperto, no? Perché non si mischia a caso, ci sono una serie di mosse uguali per perché devono essere uguali, beh chiaro, perché la soluzione poi deve essere uguale per tutti, ovvio, perché sennò uno è più difficile, più facile. Dallo stesso certo, livello, giusto, diciamo. Giusto. Nel momento in cui tu hai in mano il cubo, parte tempo, quindi la memorizzazione fa parte del tempo. Certo, quindi e dopo chiedi tu di essere bendato a un certo punto? No, poi tu hai la benda, quando sei pronto abbassi la benda e incominci a risolvere il cubo, però diciamo che la difficoltà sta anche nel cercare di memorizzare più velocemente possibile. Allora tu che cosa memorizzi come prima cosa? Cosa guardi? No, io c'è un pezzo che si chiama il buffer, quindi da cui parte il mio schema. Io ho associato ad ogni sticker del cubo una persona o un'azione, quindi utilizzando tecniche di memoria che utilizzano anche in altre discipline. Ma dai! Antiche, sì. Dalla tecnica delle loci piuttosto che quella delle persone con le azioni, quindi io mi faccio visualizzo delle immagini. Ho capito, quindi tu dici la zia dal nonno e intanto sai che devi muovere, sì, quello, poi dici mia sorella dal dottore, c'è cioè una roba del, sì, genere. Sì, no, io faccio una persona che potrebbe essere mia zia piuttosto che mia sorella che fa una determinata azione in una stanza della casa, poi l'azione successiva sarà fatta da un'altra persona in un'altra stanza, perché ovviamente i pezzi si muovono, c'è cioè una certa successione, altrimenti sì, potrei rischiare di muovere un pezzo prima o dopo, certo, e quindi diventa un caos. Io non so come. Senti, quanto tempo ci metti da bendato a risolvere il cubo? Diciamo che il cubo classico è in gara, ho fatto 1,55, mentre il record italiano è di un altro ragazzo che di 5 secondi, sia di memorizzazione che soluzione, ha fatto tutto, ha memorizzato penso in 20 secondi e risolto in 35. Allora guarda Fabrizio, io a un certo punto ti chiederò una lezione per risolverlo, guardandolo però il cubo, perché io la memorizzazione, come racconti tu, a parole funziona, ma io poi, se mi devo ricordare mia sorella e mia zia, vado di nuovo in confusione. La memoria non ha confini. Io ho iniziato a fare cubo 4 anni fa, dopo aver visto il film La ricerca della felicità con Will Smith, in cui c'era l'attore appunto che risolveva il cubo. Io, incuriosito, ho provato a guardare delle guide su internet, ho imparato e ho iniziato così la mia storia con il cubo. Certo. Dopo 2 o 3 anni mi sono avvicinato a quest'altra disciplina e non riuscivo proprio a ricordare niente. Cioè, perché certo. Avendo interrotto gli studi più di 15 anni fa, diciamo che la memoria era un pochino così appisolata. E poi invece sei riuscito, insomma, la tua memoria è diventata straordinaria. Scusami Fabrizio, ma voi vincete qualcosa portando poi, vincendo il record? C'è del denaro, c'è qualcosa? Ah, diciamo che come disciplina si sta sviluppando negli ultimi anni, per cui se l'organizzatore locale riesce a procurare dei piccoli sconti, ecco, fatti regalare un telefonino nuovo, Fabrizio, perché ti sentiamo molto male. Vai e viene la tua voce, sì. Adesso non so se sei tu che metti la mano davanti al microfono, proprio, no, il telefonino che non funziona. Devo stare più fermo. Ah, ecco, ti muovi, sei agitato. No, ma è agitato, l'agitazione è stata ieri, che si sono conclusi i campionati nazionali. Ma sei ancora titolare quindi? Sì, diciamo che prima avevo 2 titoli, sarebbero il Multi Blind, che in pratica io ho risolto in gara 5 cubi, uno dopo l'altro, rammentato. Sì, per cui avevo vinto il campionato nazionale l'anno scorso. Ieri in questa categoria ho risolto 8 cubi su 9, uno purtroppo perché non c'ero io, ne avrei fatti 10 altrimenti sicuramente. Poi ho vinto tutte le altre 3 categorie, quindi adesso sono campione nazionale in tutte e 4 le categorie da bendato. È andata fin troppo bene, ho fatto dei record nazionali, ma poi soprattutto ho incontrato altre persone, perché veniamo da tutta Italia. Certo, cioè. Fabrizio, ti faccio i miei complimenti, e a questo punto tu dovrai scrivere un libro che è sulla memoria, cioè far così capire agli altri come possono cercare di ricordare anche sequenze molto complicate semplicemente usando la zia, la nonna e la sorella, come abbiamo detto prima. Veramente. Vabbè, ma io utilizzo alcune volte la zia, alcune volte utilizzo le attrici. No, ho capito, però è divertente il fatto che è visivo, cioè quello che tu ricordi è un'immagine visiva che, sì, ti riporta poi a un'azione. Credo che sia molto interessante proprio, sì, questo aspetto. Tanti tipi di memoria, quella visiva è quella che alla fine uno riesce a sfruttare meglio. Chiaro. Ognuno ci avrà la sua. Sì, io in un pezzo mi associo a delle canzoni, ad esempio, quindi mi ritorna in mente la canzone e parto con la soluzione. Scrivi un libro che può essere utile per molti universitari, non solo chi ha bisogno di ricordare tante cose. Grazie Fabrizio Cernigliaro e complimenti, insomma, per i tuoi 4 titoli appena conquistati, insomma, davvero complimenti. Okay, ciao. Buona Pasqua, buona domenica. Okay, grazie, ciao. Roberta Ferraris, ciao. Buona domenica. Ciao. Hai sentito Fabrizio, Roberta? Ho sentito, all'inizio non capivo molto bene di cosa parlava, non si sentiva bene e ho pensato che dicesse invece del cubo il pupo. No. E mi sono anche un po' preoccupata. No, il cubo, cioè lui risolve il cubo di Rubik, hai presente? L'avrei avuto. Sì, me lo ricordo. Ecco, sì. Lo risolve bendato però, hai capito? Sì, una cosa incredibile. Potere della memoria, evidentemente. Infatti è proprio interessante. Senti, parliamo di vista anche con te, perché tu a un certo punto hai cambiato, hai rivoluzionato la tua vita, che prima com'era? La mia vita prima del grande cambiamento, esatto, era, sì, una vita uguale a quella di tanti altri, né bella né brutta, anzi forse migliore di quella di molti. Vivevo a Milano, lavoravo in un ufficio pubblico e vedevo molti concerti, andavo tanto a teatro, al cinema. E stavo bene a Milano, non è che ci stessi male. Poi la vita ti porta a fare delle scelte e sono andata a vivere prima in Lunigiana, in un paese molto molto piccolo, vicino alle Alpi Apuane. E dopo qualche anno di vita in Lunigiana, quindi in un contesto comunque agricolo, sono approdata in Alta Langa, che è una delle terre estreme di questo paese, per solitudini, spazi, notti buie, insomma, campagna vera, ecco. Ecco, allora cosa è successo? Che tu a un certo punto hai pubblicato un libro che si intitola Vado a vivere in campagna, 10 regole per passare dal sogno alla realtà. E in più hai anche creato un sito che è disegnonaturalistico.it. Allora, sono due cose un po' diverse. La prima insegna a fare questo passaggio, ad avere il coraggio di andare a vivere in campagna. Soprattutto mette in chiaro quali sono gli errori più frequenti e che cosa bisogna aspettarsi dalla campagna, cosa che appunto molti, nemmeno io, sapevano, magari potevo immaginare, supporre che, come diceva mio nonno, la terra fosse bassa da lavorare, quindi faticosa, però appunto molti hanno un approccio, diciamo, romantico alla campagna, la fuga dalla città verso la campagna idillica, bucolica, non è proprio così. Certo, e quindi una volta che poi si è riusciti a fare questo passaggio, tu stai così in qualche modo raccogliendo dei disegni. Cosa succede nel tuo blog, nel tuo disegnonaturalistico.it? Sì, non è proprio un blog, è un sito anche un po' fermo che adesso vedrò di movimentare un po'. Il sito c'è da prima, c'è da qualche anno, e in realtà illustra un'attività che io ho da anni, cioè da prima, insomma, che è quella di fare dei disegni botanici prevalentemente. Sono meravigliosi, sembrano libri dell'Ottocento. Esatto, sì, è una pratica un po' arcaica, se vuoi, però fa parte del mio lavoro, perché poi in realtà io vivo in campagna, lavoro anche la terra, mi sono occupata anche di animali, di allevamento per molti anni, però poi ho sempre continuato a fare un lavoro editoriale, quindi io ho una bella connessione a DSL e lavoro con la città, di fatto, anche se sono in un luogo molto periferico, e parte del mio lavoro è anche quello di fornire delle illustrazioni, e quelle faccio. È ovvio che in campagna vengo meglio, nel senso che in campagna ho mille stimoli e mille soggetti pronti, io esco di casa, apro la porta e posso trovare fonte di ispirazione, sì, continua, insomma. Certo, certo. Tu torneresti indietro? Penso di no, anche se la campagna non è fatta diciamo per l'età anziana, per cui non è detto che io, quando avrò 75 anni, abbia ancora voglia di vivere in un luogo isolato, difficile. Considera che io sono in una cascina isolata con 2 chilometri di strada sterrata, che d'inverno magari ha 1 metro di neve. E questo va benissimo adesso, perché sono ancora una persona molto forte, molto energica, e inforco gli sci e mi muovo lo stesso, ma magari a 75 anni non ho più voglia e quindi non so la vita dove mi porterà, probabilmente da altre parti. Non so se mi porterà in città, ecco, magari mi porterà in un paese piccolo, certo, però che sia un pochino più comodo di una situazione. Però è un fatto di comodità, tu dici, di praticità, diciamo così. Poi per il resto, invece, per quanto riguarda proprio il contatto con la natura e, come dicevo io, il risveglio dei sensi, non cambieresti in questo senso. No, non cambierei, certo. Oltre alla natura e, diciamo, agli aspetti di bellezza del paesaggio, c'è anche il contesto umano, perché anche se questo è un posto isolato, anzi forse perché è un posto isolato, i contatti con i vicini di casa, che sono a 2 chilometri, quindi sono vicini per modo di dire, sono improntati alle classiche regole del buon vicinato. Per esempio, il vicino mi chiama quando nevica per sapere se va bene tutto, se ho bisogno di qualcosa. E tu dici una cosa che altrimenti in città si è persa, per cui invece infatti si riconquista così. Grazie Roberta, davvero. E ricordo il sito, che è disegnonaturalistico.it, e per chi volesse invece provare a fare questo cambiamento della vita, vado a vivere in campagna, 10 regole per passare dal sogno alla realtà. Ci hai fatto sognare però tu. Grazie Roberta. Prego. Buona Pasqua, buone feste. E abbiamo gli aggiornamenti sul traffico e poi parliamo ancora di sensi. Il riposo del guerriero. Quando sono solo in casa e solo devo restare per finire un lavoro, perché il raffreddore, c'è qualcosa di molto facile che io posso fare: accendere la radio e mettermi a ascoltare. Amo la radio perché arriva dalla gente, entra nelle case e ci parla direttamente. Se una radio è libera, ma libera veramente, mi piace anche di più perché libera la mente. Eugenio Finardi, ciao, buona domenica. Buona domenica. Mi devo scusare se ho ripescato la radio nel 76, tu poi hai fatto una valanga di altre cose, tra l'altro hai dimostrato le doti attoriali anche al filo drammatici qualche anno fa con Suono, però sai, facendo questo mestiere non potevo non far ascoltare questa canzone, ovviamente. Sì. Mi perdonerai, perché insomma poi allora io invece arrivo da quell'anno ai giorni nostri, agli anni di Sugo, diciamo così, ai giorni nostri. Stai sentendo il cambiamento di stagione anche tu, perché siamo tutti col raffreddore, la tosse, queste cose? No, perché ancora prima mi sono inghiottito che la saliva dalla parte sbagliata, per questo no. Va è bene. Un classico, è come quando devo andare in televisione mi viene sempre l'orzaiolo. Ah sì, certo, perché con la benda sull'occhio, diciamo, tipo pirata. Allora, tu stai promuovendo qualcosa che accadrà domenica 29 maggio, quindi siamo un po' in anticipo, però volevo raccontarlo perché sicuramente ha a che fare con i sensi, questa volta il senso del suono ovviamente, quindi l'udito, perché in collaborazione con il Teatro alla Scala c'è un progetto che si chiama Costruire con la musica. Ce lo vuoi raccontare un po'? Sì, in collaborazione col Teatro alla Scala, la Fondazione l'Orchestra Verdi, un po' tutto il mondo della classica e anche della musica, non mi piace chiamarla leggera, chiamiamola popolare, milanese, si sta muovendo per questa raccolta indetta all'inizio dal maestro Barenboim di strumenti non utilizzati, strumenti musicali ovviamente, per le orchestre giovanili del sistema Abreu. Non so se ne hai mai sentito parlare, questo visionario Abreu che ha fondato delle orchestre per i bambini proprio dei ghetti, degli slums, delle bidonville venezuelane, creando delle orchestre meravigliose, togliendo questi ragazzi dalla strada. Ebbene, Barenboim ha portato questo progetto in Palestina, facendo un'orchestra mista israeliana-palestinese di ragazzi. La stiamo portando in Mozambico con orchestre soprattutto a fiati meravigliose, ed è una cosa che interessa poi anche l'Italia, perché anche l'Italia è piena di luoghi. Mi ha scritto proprio ieri un insegnante di musica calabrese che appunto cerca strumenti per la sua orchestra giovanile, e c'è molta gente che in casa ha strumenti che non usa, strumenti che magari sono appesi al muro per bellezza oppure riposti in un angolo quasi a dar fastidio, vecchi violini, vecchie trombe di qualche zio dimenticato che ha avuto un innamoramento per il jazz. Ecco, se non li utilizzate, uno strumento non utilizzato è un pezzo di legno morto. Ecco, è molto vero. Io questa cosa mi rattrista un po' sempre, perché chi ha uno strumento musicale in casa secondo me deve suonarlo, nel senso, anche male, se vuoi, però è un peccato. Oppure farlo suonare a qualcuno, no? Esatto, a casa, certo. I grandi musei del mondo, i proprietari di Stradivari sono quasi tutti banche, no? Però li fanno suonare, perché sennò non valgono più niente. Anche perché poi molti strumenti ritornano in vita suonandoli, no? Il legno, per esempio, vive suonandolo, sennò davvero si dimentica di essere tale, di essere uno strumento. Sì, io devo suonare le mie chitarre a rotazione, sennò si offendono come vecchie zie. È vero, è molto vero. Senti, io vedo che quando lo strumento è di grandi dimensioni, c'è anche la possibilità di contattare Milano Musica per fare in modo che questo strumento possa essere anche preso. Se questi strumenti non sono in buone condizioni, noi li ritiriamo, li mettiamo a posto, perché ci sono parte nell'organizzazione, c'è anche per esempio l'associazione degli utai cremonesi, ci sono tanti anche riparatori, persone che amano gli strumenti dalla parte diciamo artigianale, e a questi strumenti verrà ridata vita. Quindi anche se avete una cosa che pensate sia morta e sepolta, ha ancora della musica in sé. Questo è molto vero, li sento già gli strumenti che ritornano a suonare. C'è la mia tastiera per esempio che li ferma, e quando c'è qualcuno che sa suonare sicuramente meglio di me la tastiera, io dico: ti prego, suona qualcosa, anche molto semplice. Ma perché... è stato quello che regalerò io, una vecchia tastiera oramai diventata obsoleta, che invece per un ragazzo può dire, può voler dire la possibilità di studiare il pianoforte. Sicuramente, certo. Perché bisogna pensare che questi strumenti andranno in mano a bambini, proprio a ragazzi che potrebbero, e soprattutto a ragazzi di zone disagiate, di ragazzi che potrebbero diventare violenti, che potrebbero entrare in un mondo di violenza e di crudeltà, e che invece proprio in questo giorno di pace, pensateci, con uno strumento entrano in un mondo le cui parole sono armonia, concerto, accordo. Ecco, io cercherò di ricordare anche il 29 maggio, quindi proprio nella data, perché ripeto, oggi lo stiamo anticipando, dalle 11 alle 22, la prima raccolta italiana di strumenti promossa da Milano Musica. Cercate su internet. Ecco, sì, nello spazio Padiglione Visconti, via Tortona 58, scusami. Il laboratorio della Scala, poi, esatto. Dove la Scala costruisce le sue scenografie. Sì, quindi via Tortona 58 a Milano, siamo in zona Navigli, uscita Porta Genova linea 2, per chi volesse arrivare con i mezzi. Eugenio, io ti ringrazio veramente molto per questo e per anche altro, e poi se me lo concederai ci sentiremo una prossima puntata, perché volevo così farti qualche domanda sul tuo rapporto con la musica classica dopo il successo, mi sembra che tu abbia vinto la Targa Tenco con Cantante al microfono, ma di questo poi parleremo una prossima volta. Ti ringrazio molto. Benissimo. Intanto grazie, fammi augurare buona Pasqua. Come e buon no. 25 aprile a tutti. Certo, grazie ancora Eugenio Finardi, buona domenica. E a questo punto chiudiamo con ancora tanti sensi messi insieme. Zanini, produzione Porte Hotel Tagliafuoco. Sogni d'oro, Zanini Porte. Vi presenta Il Gastronauta. Davide Paolini, buona domenica, ciao Davide. Buona domenica e buona Pasqua a tutti. Allora, insomma, tu chiudi il cerchio, nel senso che la puntata è dedicata al il richiamo dei sensi, e anche tu a un certo punto l'hai sentito questo richiamo nel corso della tua vita. Non so se tutti sanno la tua storia, ammesso che tu lo voglia raccontare, ovviamente. No, sì, la racconto. Diciamo che il cibo è sempre stata una mia costante di passione, ma un tempo era solamente una passione, non era né un lavoro né un qualcosa così di continuo nella mia vita, perché io per molti anni mi sono fatto prima il giornalista economico, poi sono stato comunicatore Benetton per tanti anni, compresa un periodo in Formula 1, quindi diciamo che il pranzo e la cena c'erano sempre, quindi la passione è sempre stata fin da bambino, e devo dire che io già proprio all'inizio ho cominciato a scrivere di cibo. E poi magari scrivevo una volta solo la domenica sul Sole per tanti anni, e poi dopo invece è diventato qualcosa di molto continuo. Quindi credo che cambiare faccia molto bene. Il problema è sempre questo, che quando una passione diventa un lavoro, magari non è più una passione solo, sono due cose allo stesso tempo, quindi diventa una cosa diversa. Però fare quello che diciamo piace, fare quello che uno ama, sicuramente è un fatto vincente, perché dà molto di più, anche in periodi magari di scoramento, periodi neri o periodi difficili, forse facendo quello a cui uno piace ha modo così di star meglio che se fosse altrimenti. Indubbiamente, rendere un mestiere la propria passione è sicuramente uno dei più grandi regali che si possa avere dalla vita, questo è poco ma sicuro. Davide, cosa ci sarà sulla tua tavola pasquale? Ma la mia tavola pasquale non lo so ancora, perché sinceramente anche tu. Sono le 11:20, però con molta sincerità ti dirò che non so dove sarò, lo deciderò magari fra un'oretta, non lo so. Ma devo fare un appello agli ascoltatori per invitarti a pranzo? Sì, non è escluso però che nel momento del pranzo io possa salire su un treno, e quindi sicuramente non mangerò nella carrozza ristorante. Ecco, certo. Questo sarà chiaro, magari mangerò le 2, 2:30. Cosa vorresti che ci fosse? Ma guarda, la cosa che vorrei che ci fosse, qui ritorniamo ai ricordi da bambino. Sì? In Romagna, cioè nel mio paese, c'era questa pagnotta pasquale con l'uovo, e magari mi piacerebbe ritrovarla, sarà un po' difficile oggi, comunque mi piacerebbe ritrovare quella pagnotta quella pagnotta pasquale con l'uovo, che è un po' il simbolo della Pasqua. Della festa, certo. Se ci pensi bene, la Pasqua, oltre che all'agnello, per motivi, se vogliamo, mistici, per motivi religiosi, non è che ci siano dei legami precisi, anzi ci sono tradizioni completamente diverse, non è come il Natale, che così ha dei riti abbastanza prefissati da sempre. La Pasqua è, io credo, quando si dice Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi, si dà in un certo senso anche una libertà al cibo, quindi a mangiare dove si vuole, con chi si vuole, quale pasto magari si vuole, che cosa si preferisce. Certo che l'agnello è una ricorrenza un po' in quasi tutte le regioni, in particolar modo alcune è proprio una tradizione. Però, come ti dicevo, questo pane pasquale, questa pagnotta pasquale, e mi ricordo che c'è un paese in Romagna che si chiama Sarsina, dove c'è veramente, continuano a fare questa tradizione con una pagnotta bellissima, che ti dirò sinceramente che io ho ricevuto questa pagnotta pasquale, magari questa sera mi mangerò quella. Ecco, allora, insomma, ti auguro ovviamente di riuscire a ritrovarla e anche a gustarla, meglio ancora se buona, ma lo sarà sicuramente. Davide... Ma io auguro invece a tutti quanti magari di passare una buona Pasqua e di passare così nella tavola con i cibi che si vogliono. Ecco, anche magari con una bella spaghettata al pomodoro, come dicevamo all'inizio, no? Ma sì, Pasqua, come dicevo, Pasqua con chi vuoi e mangia quello che vuoi. Aggiungo io. Ecco, però c'è una cosa volevo dirti, sì. La colomba rispetto al panettone. Il panettone è qualcosa ancora più di tradizionale, la colomba meno, ma devo dire che io non amo fortissimamente la colomba proprio per diciamo come fatta. Invece adoro il panettone, la colomba. Quest'anno ne ho trovato una straordinaria. Ne ho trovato una straordinaria di cui ne ho già parlato alla radio, sì. E devo dire che non voglio fare ulteriore pubblicità perché questa pasticceria è stata presa d'assalto, così mi è stato detto, e quindi non voglio assolutamente continuare a fare questo tipo di pubblicità. Però veramente quest'anno ne ho assaggiato prima di Pasqua una davvero molto ma molto importante. E poi cosa vuoi che auguri? Che dentro l'uovo ci sia quello che uno sogna, quello che uno vuole, insomma. Ecco, i desideri, ecco, al di là della sorpresa, i desideri, quello sicuramente. Grazie Davide Paolini, auguri, ci sentiamo poi domenica prossima. Grazie. Ciao. Ancora. Tra pochissimo giochiamo, speriamo anche di regalarvi questi 1000 euro, 800 24 0024. Il riposo del guerriero. Certo che mi è venuta fame comunque, ovviamente, perché vabbè, anche l'ora quasi, no, si avvicina, che molti festeggeranno così. Va bene, noi siamo pronti a festeggiare con 1000 euro invece. Un mistero in 24 minuti. Questo è il premio per voi, ammesso che riusciate a risolvere il mistero. Può essere una notizia oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto. Per arrivarci avrete degli indizi musicali da ascoltare, più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. Il numero verde 800 24 0024, ed ecco il primo indizio. Se ne va, lui che dopo un'ora dice no, ma c'è un aereo, arriverò sicuramente prima di te. Però quando questa canzone è stata incisa, perché oggi sarebbe un po' diverso, perché ho l'impressione che in molti casi ci si metta meno col treno piuttosto che con l'aereo, quindi non so se possa funzionare ancora il testo. Vabbè, Giacomo, buona giornata da Verona. Buona giornata. Ciao Giacomo, allora questa era 7:40, Lucio Battisti, la conoscevi questa canzone? Sì. No, sinceramente no, ne ha scritte troppe Lucio Battisti per conoscerla. Non ne ha scritte abbastanza, io direi, guarda, l'avrei fatto scrivere ancora per molto tempo. 7:40, è una delle prime canzoni, uno dei primi grandi successi di Lucio Battisti, sempre con le parole di Mogol. E 7:40 è l'orario dell'inizio, diciamo così, della partenza del treno della sua fidanzata, almeno così raccontato nella storia. Giacomo, ci sono 1000 euro qua nell'uovo. Io proverei a chiedere un altro indizio. Allora scendiamo a 500, aspetta che spacco l'uovo in due, le due metà. 500 euro, secondo indizio. Nella versione di Pretty Woman originale, diciamo così, questa è stata la prima. Questa la conoscerai, Giacomo? Sì, beh, questa sì, più che difficile. Guarda che è più vecchia di 740 in realtà, è solo che la conosci perché è stata usata anche per il film, certo. Allora, abbiamo 740 di Lucio Battisti e Pretty Woman di Roy Orbison. Ma direi una notizia che mi è venuta in mente di due donne che si sono finte di addette alle tasse e hanno portato via dell'oro ad un'altra donna, un'anziana. Guarda come mi fanno arrabbiare queste cose, tu non hai idea. Sì. Sei proprio... ma per mille motivi, va bene, non dico niente, non aggiungo nulla. Tu potresti essere quello che porta a casa 500 euro, spero di sì, ma lo sapremo solo allo scoccare del 24esimo minuto. Grazie Giacomo, grazie. E buona Pasqua. Ciao, grazie. Enrico da Brescia. Ciao Enrico, tieni il tempo lì che sei vicino al lago? Sì. Si sta rannuvolando, ma non in maniera non preoccupante. Ah, meno male. Allora, forse ce la caviamo. No, perché sentivo prima dal traffico, pare che lì, insomma, verso il lago di Garda ci sia parecchio traffico. E lì sto andando. Ah, lì stai andando, bene, a festeggiare. Allora... Andiamo a vedere quando arriverai. Arriverai sicuramente. Allora Enrico, noi abbiamo già 500 euro sul piatto, due indizi, ne vuoi un altro, cosa vuoi fare? Ma io vorrei dare una risposta che vi in mente fin dall'inizio, sì. Anche se quello secondo mi ha mandato un po' fuori strada. Comunque io volevo dire Giulio Tremonti. Per il modello 740 è una situazione di idee. Scusa, rido. Bravo Enrico, bravo. Ti auguro buona Pasqua anche a te. Ciao. Bravo Enrico, non lo so se è la risposta giusta, eh? Alberto dalla provincia di Modena, buongiorno. Buona Pasqua innanzitutto. Grazie, senti, ma tu fai la torta della quale prima ha parlato Davide Paolini? Non la torta, no. Ma questo dolce con l'uovo, no? Questo pane di uovo. No, niente. No, assolutamente ma no. Hai capito di cosa stava parlando? Ma è un dolce un po' particolare che non l'ho capito francamente. Vabbè, niente, ce lo dovremmo fare da lui a questo punto. Va bene. Allora Alberto, che cosa vuoi fare? Nel senso che abbiamo ancora altri indizi oppure... Io avevo la mia idea in partenza, però Pretty Woman me l'ha un po' scompaginata, la dico lo stesso. Certo. Io avevo pensato alla cosa di Chernobyl, che stavano cercando 740 milioni di euro per metterla in sicurezza e non li hanno trovati, la notizia. Ecco, quindi tu dici la cifra, questo numero, esatto. 740 che ritorna. Esatto, mi portava lì, poi certo, può essere certo. Esatto, può essere sbagliato, lo impariamo dopo. Certo, Alberto, ma è fantastico perché io ho scoperto che voi quando avete un'idea iniziale poi manterrete sempre quella. Io metterò solo un indizio la prossima volta, tanto però non cambia niente. Ciao Alberto, grazie, buona domenica, ciao. Norina, anche tu da Verona, buongiorno. Buongiorno, buona Pasqua. Anche a te. Oh, Nolina, facciamo una cosa. Sentiamo gli aggiornamenti sul traffico, così vediamo come va sulla 4 verso il lago di Garda e poi torno a parlare con te. Un mistero in 24 minuti. Tutti verso i laghi, a quanto pare, Garda, Como e Maggiore, almeno per quanto riguarda il nord Italia. Norina, allora, siamo qua, cosa vuoi fare? Voglio rispondere. Vuoi rispondere, quindi nessun indizio in più. Vai. No. Con il primo indizio mi è venuto Monte Zemolo, per la difficoltà che ha negli appalti delle tratte private dei treni con le ferrovie. Chissà se riuscirà a fare questa linea di cui tanto si parla. Grazie Norina. Ecco, a posto. Buona domenica, auguri anche a te. Buona domenica a lei, arrivederci. Ciao, grazie. Scendiamo invece. Gianni da Taranto, buongiorno. Buongiorno. Ciao Gianni. Dico subito che non ne ho la più pallida idea. Ma senti, ma perché un indizio no? Ti piacerebbe? Ma no, perché? Perché proviamoci prima. perché magari a quanto si abbassa il montepremi dopo questo inizio? E da 500 andresti a 300 euro. Beh, sempre qualcosina. Beh, sì. Non ho capito, scusami. Dico, sempre qualcosina, No, certo, sì. Ma allora vuoi ascoltarlo questo terzo indizio? Ascoltiamo questo benedetto terzo indizio. Eccolo qui che arriva allora. I miei giorni felici l'ho vissuti con te. Sono l'unica cosa che sia tutta per me. Gianni, io credo che tu sia troppo giovane per conoscere questo cantante. Ma chi dice che io sia giovane? Fondamentalmente io ho l'anima immersa negli anni 60, 50, ma anche 40 e 30. Quindi sai chi era? No, però allora lo conosco, non so chi la canta. Guarda, questo era Wes, che forse ricordavate insieme a Dori Ghezzi. Guarda, che faceva coppia con Dori Ghezzi. Bravo, esatto, ma questa persona è da solo. Era Wes con I miei giorni felici. Credo che sia un indizio veramente... Guarda, Pasquale proprio. La strada giusta. Sì. Vai. Allora, sin dall'inizio, sin da quando ho sentito 7:40, ho pensato, cavolo, si parla di partenza. E sai come si dice, né? Né di Venere, né di Marte, non si sposa e non si parte. Sì. Però appunto ho pensato, cavolo, la prossima settimana si sposa William e Catherine. Ho detto, magari è qualcosa che riguarda questo, anche perché si mangia, si beve, ha a che fare con il gusto, ha a che fare con il giorno più felice. Hai messo tutto insieme, insomma, ecco, va bene, insomma, certo. Allora tu dici il matrimonio di William e Kate. Sì, Kate, Catherine. Sì, sì, sì, lei, insomma, certo. Grazie Gianni, ciao, buona giornata e salutami la tua compagna. Grazie, ecco, anche a te, tuo compagno o tua moglie, non lo so, comunque, perché si stavano così consultando. Claudio da Modena, buongiorno. Aia. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Claudio, abbiamo 5 minuti. Pronto, sì. Io ti sento, sì, ti sento bene anche. Cosa vuoi fare? Ma proviamo. Butti una risposta, nessun indizio? Sì, penso al compleanno di Liva di Montalcini, 102 anni, perché parla di donne, insomma, mi viene in mente quello lì. È un bel compleanno. Presto, ogni tanto presto. Grazie e auguri anche a lei, ovviamente, e anche a te per le feste. Grazie Claudio, buona giornata. Grazie. Ciao. Marina, dalla provincia di Reggio Emilia. Ciao. Siete tutti centrali oggi, ciao, quasi insomma. Ciao. Allora, buona Pasqua. Anche a te Marina, che bello, cosa mangerai? Beh, i primi della tradizione emiliana. Ha detto così, è venuta già fame, guarda, ecco. Già me li vede i tortellini. Allora Marina, che cosa vogliamo fare? Una guarda, risposta o un indizio? Così l'avevi Montalcini, ma Claudio mi ha bruciato ancora. Guarda, ti bruciano sempre, ma ti dirò che la risposta esatta non è ancora arrivata. Non è ancora arrivata? Assolutamente no. E guarda che col terzo indizio la risposta ce l'hai lì. Pronta, sul tavolo. Ma, i miei giorni felici. I miei giorni felici. Non lo so, dico Roberto Lassini. Segno, Grazie, ciao Marina, ciao. Non dico niente. Nunzia, dalla provincia di Trani. Salve. Adesso è Trani, Barletta, Adria, tutto insieme? Okay. Sì, siamo A tutti uniti, va bene, ma Trani resta lei. Allora, Nunzia, cioè per quanto riguarda la bellezza. Nunzia, che cosa vogliamo fare? Provo a dare la soluzione, non so. So che gli attori di Happy Days hanno fatto causa ai produttori. Allora, Happy Days, giorni felici, mi viene in mente questa notizia. Ti viene in mente la notizia, ovviamente. E grazie Nunzia, buona giornata. Grazie, ciao, grazie, ciao, grazie, grazie, grazie, ciao. Ciao. Alessandro, la provincia di Bologna. Buongiorno, buona Pasqua a tutti. Alessandro, sicuramente a causa dei primi due indizi dirò sicuramente una cretinata. Ma adesso qua... Alessandro, perché devi abbatterti così? Sono non capito. Perché non ho idea di cosa dire. Qualche ministro ha detto di far pagare le tasse alle prostitute, 7:40, Pretty Woman, qualcosa del genere. Ma tu se fossi un ministro cosa faresti? Accetteresti questa legge? La proveresti certo, o no? Sì. Certo, io legalizzerei la prostituzione vedi? E la assoggetterei a tutti, a tutte le regole, ecco, normali, ma un normale lavoro. Ecco, ma un cliente poi potrebbe dedurre dalle tasse la spesa o no? Questo no, vabbè, no, scusi. Era una provocazione. Grazie Alessandro, ciao, niente, buona giornata. E da Alessandro passiamo ad Alessandra, invece, che è in Abruzzo, è a Pescara. Alessandra. Pronto? Eccoci, ciao. Ciao, buona Pasqua. Anche a te, anche a te. Ascolta, io avevo pensato ai migranti, ai treni a 20 miglia, alle ricongiunzioni familiari, alla felicità. È un bellissimo pensiero questo, Alessandra. Non so se la risposta è giusta, ma sicuramente è un ottimo pensiero. Grazie, okay. Alessandra. Ciao. Buona Pasqua. Grazie anche a ciao. Te. L'ultimo, Gianluigi da Pavia. Sì, buongiorno. Buongiorno e buona Pasqua. Grazie, Gianluigi, anche a te. Allora, tu sei l'ultimo e devi. Senta, all'inizio, cioè, cosa sarebbe dire il nome, diciamo, del responsabile di tutte le canzoni che sono state cantate o tradurre dalle canzoni? No, le canzoni contengono un indizio che non sai dov'è, nel senso che può essere nel titolo, nel cantante o nella storia della canzone. Tutte le canzoni contengono un indizio che porta a una risposta, che può essere o un personaggio famoso, ovviamente, oppure a una notizia della settimana. Beh, comunque, Tre più uomini fa pensare anche la canzone subito dopo I miei giorni felici con Berlusconi e compagni. Berlusconi e C, poche parole, esatto. Va bene. Allora, grazie Gianluigi, adesso scopriremo, visto che è finito il tempo, chi ha vinto. Grazie Gianluigi e buon auguri, e abbiamo sì signori, una vincitrice. Sì, eccola qui che arriva. Nunzia! Eccoti lì, 300 euro per te. Grazie. 7,40, perché sono 40 i milioni di dollari chiesti dal cast di Happy Days, proprio per il merchandising che in tutti questi anni è stato venduto. Pretty Woman, semplicemente perché dovete pensare che il regista di Pretty Woman, che è Gary Marshall, è stato anche lo sceneggiatore, quello che ha inventato Happy Days. Ecco perché il secondo indizio era Pretty Woman, I miei giorni felici, sì. E lì era facile, sì, perché bastava tradurre in inglese il titolo Happy Days e quindi giorni felici. Nunzia, complimenti. Questa che mi ha portato alla soluzione. Beh, sono felice per te, così almeno festeggerai una bella Pasqua. 300 euro da spendere su libreriarizzoli.it, complimenti. Grazie mille e complimenti per la trasmissione. Grazie Nunzia, davvero, grazie a tutti, auguri ancora anche per noi. Grazie, auguri. Ciao e auguri a tutti anche per domani, lunedì dell'Angelo e anche la festa della Liberazione. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, l'assistenza di Claudia Carusi, Peter Bescapè in regia e a voi. Ovviamente ci sentiamo domenica prossima, sempre con Il riposo del guerriero. Ancora un ciao da Stefano Gallarini. Oh!